Non ti è bastato il tempo per prendere le ali, librarti verso il cielo, sfidare il tuo destino, volare contro il vento che spazza noi mortali. Non ti è bastato il cuore per starle più vicino, vederla consumarsi dietro i suoi spessi occhiali, per sorridere anche alla morte, per farvi anche un inchino. Non ti è bastato il mondo, ricordi oggetti inutili per accompagnare la tua sera verso un nuovo mattino, per sentire ancora nell'anima quel palpito senza uguali. Non ti è bastato il sonno di 100 morbidi guanciali per sopire quell'angoscia che la mente relega al confino, per spegnere nell'oblio il fatto crudele di suoi strali. Non ti è bastato il sale che mare ti donò, e neanche il vino a ridarti la ragione quando sei impazzito dopo i suoi funerali. E mentre l'anima tua inquieta si protende al dolce approdo divino, viaggia nel vuoto la mente tua, confusa e ottenebrata da mille misteri astrali.